Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Gran Bretagna verso le elezioni anticipate l'8 giugno, l'annuncio della Premier Theresa May pochi minuti fa, ci vorrà un voto parlamentare. Referendum in Turchia, opposizione pronte a presentare ricorso, secondo l'OSCE le schede dubbie sono 2 milioni e mezzo. Francia 4 candidati in pochi punti percentuali, Le Pen e Macron al 22%, Fillon al 21%, Mélenchon al 18%. Dopo il blocco imposto dalla regione Basilicata, l'ENI chiude il centro Oli in Val d'Agri temporaneamente, ma ribadisce la sua correttezza. Migranti, migliaia di arrivi, 1600 verso lo sbarco in giornata a Vibo Valentia, 800 a Cagliari, 500 a Palermo. Fallisce lo sciopero dei lavoratori dell'outlet di Serravalle, poche serrande chiuse, resta aperta la discussione sulle aperture domenicali e a Pasqua, come avete sentito anche in Melog di Gianluca Nicoletti. Il processo d'appello inizia a 11 anni dalla sentenza di primo grado, ma il reato è già prescritto, un altro caso da Torino. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, il 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, e volendo potete intervenire commentando anche sulla nostra diretta video su Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, oppure sulla pagina Facebook di Radio 24, ci trovate anche là. In apertura andiamo dunque in Gran Bretagna, iniziando da questo annuncio. I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. 8 di giugno dunque, lo sentite nelle parole di Theresa May, la premier britannica che vuole elezioni anticipate. Andiamo a collegarci con Londra col corrispondente del Sole 24 Ore, Leonardo Maisano. Leonardo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, sì, annuncio sì, completamente inatteso. Completamente inatteso. E questa mattina Theresa May ha fatto sapere che avrebbe fatto questo comunicato circa mezz'ora fa, 45 minuti fa, e sono a quel punto incominciate a circolare le voci di possibili elezioni snap, come si dice, improvvise, nel giro di poche settimane. La sterlina è caduta immediatamente sui mercati. E la caduta si è stabilizzata quando è stata data la conferma di elezioni. Ora l'iter è quanto mai complesso, perché Theresa May ha una maggioranza di 17 deputati, 2/3 dei deputati di Westminster devono dare l'ok per elezioni anticipate, altrimenti non si possono fare. E il problema è esattamente questo: la maggior parte di questi deputati perderanno o rischieranno di perdere nelle loro constituency, e ovviamente si riapre in qualche misura tutto il capitolo sulla Brexit. Leonardo, una domanda: come mai May ha deciso di chiedere elezioni anticipate? Perché si sente fortissima, nel senso che tutta la sua forza nasce dalla debolezza straordinaria del partito laburista, che è guidato da Jeremy Corbyn, un leader che può piacere per certi aspetti così molto radicali, ma che in realtà ha sprofondato il partito ai minimi storici, lo ha allontanato dal centro, lo schieramento parlamentare dove l'avevano portato Blair e in qualche misura Gordon Brown, l'aveva tenuto anche Ed Miliband, e lui lo ha spostato decisamente a sinistra, recuperando consenso in quel mondo un po' più radicale che era scontento con dell'Labour bleriano, ma sacrificando moltissimi voti. In questo scenario, con 10-12 punti di vantaggio dei Tory sui laburisti, e Theresa May ha ritenuto che fosse opportuno cercare di consolidare la sua maggioranza per arrivare a una grande vittoria. E deve avere una grande vittoria perché ha detto nel suo messaggio alla nazione: io non posso andare a combattere per la Brexit con un Parlamento che mi fa la guerra ogni passo. I Lords gli avevano creato dei problemi, i Lords chiaramente non ci sono elezioni, quindi non ci sarà un nuovo voto, però erano stati un ostacolo importante, e lo stesso Labour insieme ai Liberal Democratici avevano creato, come dire, un sottofondo e una prospettiva di grande complessità per la trattativa che Theresa May ha in testa. a questo punto sì. vuole stravincere, occupare il Parlamento e fare la Brexit alle sue condizioni. È una scommessa incredibile perché naturalmente ritorna in gioco la Brexit e non ricordiamoci, non dimentichiamoci che il 48% del paese ha votato contro la Brexit. Allora io ti ringrazio, grazie a Leonardo Maidano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, per questo aggiornamento, per questa analisi e per questa spiegazione. Veniamo ad altre urne, quelle turche, sentiamo. Mentre infuriano le polemiche sul voto referendario di domenica, Erdogan incassa le congratulazioni di Donald Trump. La telefonata del presidente degli Stati Uniti è arrivata ieri e i due leader hanno parlato anche dell'attacco con i gas in Siria, oltre che della necessità di una cooperazione nella lotta al terrorismo e soprattutto all'ISIS. Sempre ieri sono arrivate però anche le dure critiche dell'OSCE, che aveva denunciato violazioni degli obblighi internazionali sulla libertà e l'equità del voto, accuse alle quali Erdogan aveva risposto dicendo: state al posto vostro, non prenderemo in considerazione rapporti preparati con motivazioni politiche, definendo la votazione di domenica la più democratica mai vista in un paese occidentale. L'Europa per ora ha scelto una linea per lo più improntata alla prudenza, con l'eccezione del ministro degli esteri austriaco Sebastian Kurz, che dopo il referendum ha immediatamente chiesto l'interruzione delle trattative per l'adesione della Turchia. Ieri intanto Ankara ha deciso di prolungare di altri 3 mesi lo stato di emergenza in vigore nel paese dal 20 luglio 2016. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Molta attualità internazionale, come sentite in queste ore, attualità internazionale che ci parla anche della Corea del Nord e delle tensioni con gli Stati Uniti. È finita l'ora della pazienza strategica. Gli Stati Uniti cercheranno di garantire la sicurezza nella zona della Corea del Sud con mezzi pacifici, ma tutte le opzioni sono sul tavolo. A parlare è il vicepresidente americano Mike Pence. La risposta di Pyongyang non si è fatta attendere. Una guerra nucleare potrebbe scoppiare da un momento all'altro nella penisola, ha detto l'ambasciatore nordcoreano all'ONU Kim In-ryong, parlando coi giornalisti a Palazzo di Vetro. Intanto il primo ministro giapponese Shinzo Abe chiede una soluzione pacifica alla crisi durante il suo incontro di oggi col vicepresidente degli Stati Uniti Pence. Ieri in un tweet Trump ha affermato che la Cina sta lavorando proprio con gli Stati Uniti per risolvere il problema nordcoreano. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo ancora sull'estero per spostarci in Francia, innanzitutto con notizie di cronaca che stanno arrivando in questi minuti e che riguardano un'operazione antiterrorismo, due presunti terroristi sospettati di preparare attentati durante la campagna presidenziale francese sono stati fermati questa mattina a Marsiglia. A Marsiglia c'è in questo momento, ci sono in questo momento una serie di perquisizioni in un edificio che è stato evacuato ed è arrivato un avvertimento da parte dei servizi di sicurezza francesi ai candidati sul rischio attentati che minaccia in maniera particolarmente pesante la campagna elettorale. Campagna elettorale che vede in questo momento appunto 4 candidati, sostanzialmente quasi tutti con le stesse percentuali e quindi con la stessa possibilità di accedere al ballottaggio. Il fatto che i 4 candidati siano molto vicini tra loro nelle intenzioni di voto lo rivela questa mattina l'ultimo sondaggio curato dal quotidiano economico Les Echos. Ad avvicinare i 4 a 5 giorni dal voto ci sarebbe soprattutto la flessione per la candidata del Fronte Nazionale, che oggi viene data al 22%, tallonata, per alcuni addirittura superata, da Emmanuel Macron. Nous sommes les patriotes, nous irons au bout. Il leader di En Marche è stato protagonista ieri di un comizio infuocato davanti a 20.000 sostenitori a Parigi-Bercy. Francia che torna forte e solidale, speranza, fine del disfattismo, ma soprattutto tanta Europa sono stati i temi scelti dal candidato senza partito, al quale per mesi è stato pronunciato un sicuro fallimento e che ora ha mostrato di essere capace anche di mobilitare le folle, grazie ad un carisma molto forte, fatto di emotività e di ricorso anche a molte citazioni dotte ieri da Diderot ad Albert Camus in chiusura, quando ha detto ai suoi: lo sentite il mormorio della primavera, domenica vinceremo e sarà l'inizio di una nuova Francia. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Ci spostiamo all'Italia dunque e cambiamo argomento. Andiamo in Val d'Agri, dove dopo il blocco imposto dalla regione l'ENI ha fermato il Centroli, almeno temporaneamente. Abbiamo in studio con noi, e le persone che ci stanno seguendo nella nostra diretta Facebook l'hanno già visto da qualche minuto, Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. Ciao Jacopo, buongiorno e benvenuto. Allora, che cosa è successo? Perché poi in mezzo c'è stata Pasqua, quindi può darsi che anche i nostri ascoltatori qualche puntata se la siano persa. È successo che sabato di Pasqua, cioè sabato l'altro giorno, la giunta regionale della Basilicata si è riunita nel pomeriggio in emergenza, convocando le autorità varie, ambientali e così via, e ha deliberato la chiusura del centro Oli di Viggiano. Il centro Oli è l'impianto che si trova nel centro della Val d'Agri, dove confluiscono dei vari giacimenti presenti nell'area, dai vari giacimenti confluiscono le varie linee, le varie condutture, e il greggio appena estratto viene lavorato. C'è un problema di inquinamento, cioè al di fuori dello stabilimento è una specie di raffineria, in qualche misura abbastanza simile a una raffineria, cioè viene il petrolio appena arrivato viene depurato da alcuni inquinanti, viene preparato, confezionato per essere spedito poi a una raffineria più grossa e più importante, che è quella di Taranto. Sono stati trovati al di fuori dello stabilimento alcuni punti di inquinamento, quindi questo è il contenzioso. E l'ENI dunque ha deciso cautelativamente di sospendere, di fermare l'impianto. Ma più che cautelativamente è stata la regione che appunto sabato ha fatto una delibera. La delibera probabilmente verrà formalizzata oggi in via preventiva, in attesa che venga notificato questo ordine della regione. L'ENI comincia, è un processo che richiede giorni, comincia a chiudere questo impianto. Ribadendo però la sua correttezza, cioè il suo essersi attenuta alle norme. Sì, si sospetta che uno dei quattro grandi serbatoi, quei enormi cilindroni d'acciaio che vediamo in questo tipo di impianti, uno dei quattro serbatoi abbia delle perdite e che goccioli fuori petrolio. L'ENI dice: noi lo stiamo riparando, lo ripariamo a impianto in funzione. La regione dice: no, voi dovete ripararlo e fermare l'impianto. Probabilmente ognuna delle due parti ritiene di avere perfettamente ragione, di essere assolutamente in regola. Vedremo come andrà a finire dunque. Intanto io ringrazio Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore per queste spiegazioni e per questo aggiornamento. Passiamo a parlare di migranti. Il tema ve lo abbiamo raccontato, ci parla di migliaia di persone in arrivo. 8.300 migranti salvati, 13 corpi recuperati, fra i quali quelli di un bambino di 8 anni. Sono numeri da record quelli registrati nel fine settimana di Pasqua sul fronte degli arrivi. Dalla notte scorsa il maltempo sembra aver rallentato le partenze dalla Libia, ma negli ultimi giorni sono state decine le imbarcazioni cariche di migranti soccorse nel canale di Sicilia dalle navi militari e da quelle delle organizzazioni non governative. Questa mattina un mercantile panamense, il Tuna One, ha sbarcato a Palermo 470 migranti provenienti soprattutto da Bangladesh, Eritrea e Costa d'Avorio, tutti tratti in salvo in diverse operazioni, così come i 1.700 diretti invece a Vibo Valentia a bordo del rimorchiatore Asso 29. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il governo starebbe pensando ad un provvedimento. Beh, vi ricorderete, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi col procuratore di Roma di questa vicenda. Pensa ad un provvedimento per sospendere la patente a chi telefona al volante. Tolleranza zero per chi guida usando il cellulare. Ormai, come ha spiegato il direttore nazionale della Polizia Stradale Giuseppe Bisogno, siamo di fronte ad una vera e propria emergenza. Per questo il governo accelera e annuncia la linea dura verso i trasgressori. Secondo i dati della Polizia Stradale dell'ANIA, la percentuale di incidenti provocati dall'uso di smartphone è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, arrivando a causare oltre il 20% degli schianti. Nel 2015, ultimo dato disponibile, le multe sono state 750.000, in crescita quasi del 21% rispetto all'anno prima. E poiché, come spiega il vice ministro dei trasporti Riccardo Nencini, si tratta di un fenomeno in continua crescita, per stroncarlo bisogna intervenire con un provvedimento urgente. Per questo, forse già a maggio, nel mirino dei sanzionabili ci sarà non solo chi fa chiamate senza Bluetooth, ma anche chi manda SMS, chatta, consulta internet o si fa un selfie mentre alla guida. La nuova misura dovrebbe prevedere la sospensione della patente da 1 a 3 mesi, mentre finora era prevista solo una multa tra i 160 e i 646 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Resta aperta, e come si diceva, lo avete sentito anche nella trasmissione di Gianluca Nicoletti, la discussione sull'apertura domenicale dei negozi. Le liberalizzazioni sfrenate ci stanno impoverendo, no alle aperture dei negozi nei giorni festivi. Il vicepresidente pentastellato della Camera, Luigi Di Maio, boccia così la liberalizzazione degli orari. Un provvedimento, ricorda su Facebook il giorno di Pasquetta, varato da Monti e dal PD. La stoccata di Di Maio arriva dopo la scarsa adesione allo sciopero indetto dai sindacati contro l'apertura pasquale dell'outlet di Serravalle Scrivia, dove su 240 negozi solo 4 non hanno aperto i battenti. Le liberalizzazioni sfrenate hanno fallito, argomenta Di Maio. Dovevano essere il volano dell'economia e invece ci stanno impoverendo. Non è solo una questione economica, aggiunge, ma di serenità familiare e di felicità personale. Alla Camera, intanto, Giulia Di Vita, la deputata grillina siciliana coinvolta con altri due colleghi parlamentari nel caso delle firme false a Palermo, fa un passo indietro e si autosospende dal gruppo di Montecitorio. Ad annunciarlo è la stessa Di Vita su Facebook, seguendo così il collega Riccardo Nuti, che nei giorni scorsi si è autosospeso a sorpresa senza attendere il verdetto chiesto da Grillo ai parlamentari pentastellati. L'autosospensione di Di Vita e Nuti fa saltare l'assemblea dei parlamentari grillini prevista oggi. Non ci sarà alcun voto sulle sospensioni, annuncia infatti il capogruppo della Camera Roberto Fico. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questo è anche il quadro politico di giornata. Dunque, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da dove abbiamo lasciato la settimana scorsa, perché di questo Igor Norbert, o comunque si chiami, quest'uomo che viene cercato nelle campagne, che sarebbe l'assassino del barista di Budrio e anche di una guardia ecologica, ancora non ci sono tracce. Le ricerche continuano a farsi sempre più difficili e inizieremo da là, e poi ci occuperemo anche di questa vicenda che avete sentito nei nostri titoli, ed è la vicenda di Torino, dove ci sono voluti 11 anni per arrivare dalla sentenza di primo grado all'inizio del processo d'appello. Ovviamente il reato è andato prescritto un'altra volta. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati della Gran Bretagna e delle elezioni anticipate chiese a Theresa May per l'8 giugno, del referendum in Turchia, della Francia, delle vicende della Corea del Nord, dell'ENI che chiude il centro Oli in Val d'Agri e di migranti. Sui migranti poi torneremo più avanti. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, come sempre anche in diretta video sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. È una vicenda che ormai ci tiriamo dietro da 10 giorni. Secondo alcuni sta diventando quasi una barzelletta, se non fosse che di mezzo c'è un uomo che ha ucciso almeno 2 persone, il barista a Budrio e poi una guardia ecologica. È la vicenda delle ricerche di Norbert Fehr, alias Igor Vaklavich, l'uomo di 41 anni che viene appunto ricercato nelle campagne. Giuseppe Baldessarro è un cronista del quotidiano La Repubblica. Giuseppe, buongiorno e benvenuto. Buon pomeriggio a voi. Allora, qua siamo a appunto mangia tuberi, dorme nelle tane delle volpi, punta uova e galline. Insomma, come stanno andando le ricerche? Sì, diciamo che chiacchiere a parte, le ironie che si fanno e che sono assolutamente fuori luogo, le ricerche continuano su 2 fronti. I carabinieri da una parte stanno battendo una zona che è molto più impervia di quello che si pensi, perché è un territorio molto complesso, ci sono gli acquitini, i fiumi, i campi, poi ci sono migliaia di case isolate che vanno controllate una per una. i carabinieri da una parte continuano su questo fronte, dall'altro si lavora moltissimo sul, da quello che si sappiamo, insomma, sul fronte investigativo, perché adesso il dubbio è quasi ormai una certezza, è che ci sia qualcuno che sta evidentemente aiutando e nascondendo il Fuggiasco, per cui è una situazione abbastanza complessa. Bisogna loro, i carabinieri, gli inquirenti chiedono di pazientare, perché ovviamente si muovono in punta di piedi anche per evitare rischi per la popolazione che vive in quei posti. Giuseppe, ma che cosa, come mai gli inquirenti, i carabinieri, chi sta organizzando le ricerche è convinto che si trovi ancora in quell'area? È convinto intanto perché ci sono alcune segnalazioni di contadini, di persone che hanno visto questo personaggio muoversi magari per pochi istanti, insomma, nei campi, quindi hanno queste segnalazioni che loro ritengono molto attendibili, ma soprattutto perché hanno trovato delle tracce sul territorio, hanno trovato tracce della sua presenza, hanno trovato dei giacigli con degli indumenti, insomma, cose che farebbero risalire alla sua presenza in tempi recenti in quel posto. Ovviamente non possono escludere al 100%, insomma, che questa persona non si sia potuta allontanare, ma è ovvio che loro sono praticamente certi che si trovi comunque in quella zona e stanno continuando a cercare. Stanno continuando a cercare, appunto, e sono convinti che si trovi in quella zona anche perché è una zona che a quanto pare lui conosce particolarmente bene, no? Sì, lui praticamente, a parte i periodi di carcere in cui è stato detenuto per alcune rapine per 3 o 4 anni, praticamente vive in quella zona da 10 anni. Da 10 anni vive in quella zona e quella è il teatro di molte delle sue scorribande, per cui lui conosce ogni anfratto di quell'area, questo è certo, ma soprattutto conosce anche delle persone che vivono in quell'area e ha degli amici che vivono in quell'area. Ed è ovvio che adesso si pensa anche a questa possibilità, cioè a qualche amico, qualche amica, qualche persona che stia cercando di dargli una mano. Questo complica evidentemente tutto. E ricerche potrebbero essere complicate ulteriormente dall'arrivo della pioggia, no Giuseppe? Mi sembra di aver capito, perché sì, poi i cani perdono le tracce e via dicendo. Sì, questo è già successo nella notte, fra la notte di Pasqua sostanzialmente, dove in quell'area là c'è stata una forte grandinata e già lunedì mattina le squadre di cacciatori erano abbastanza in difficoltà, perché comunque i cani che erano stati utili quantomeno a risalire ad alcuni giacigli praticamente sono neutralizzati. Tracce cancellate, gli odori si mischiano evidentemente con quelli della pioggia e della terra, diventa tutto più difficile. Diciamo che le squadre che lo stanno cercando hanno un'arma in meno in questo momento. Ti ringrazio, grazie a Giuseppe Valdessarro, cronista di Repubblica, del quotidiano La Repubblica. Trovate le sue cronache ovviamente anche sul sito del quotidiano, così come sul quotidiano stesso. Saluto il nostro giro per l'Italia. Mentre, come vi abbiamo raccontato anche nei nostri titoli, a Vibo Valentia, quindi nel sud, in Calabria, sta arrivando una nave che sbarcherà 1.600 migranti salvati nel canale di Sicilia, mentre ne arrivano 500 a Palermo, ne arrivano 800 a Cagliari. Noi abbiamo deciso per oggi, avendovelo raccontato anche nella prima parte della trasmissione in fase di cronaca, di spostarci a nord, dove poi questi migranti e queste persone vogliono effettivamente andare, perché tutto vogliono in gran parte almeno, meno che rimanere in Italia. E andiamo a Como dal sindaco Mario Lucini. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. E veniamo da lei perché ci sono i dati che sono arrivati in realtà credo proprio dalla Confederazione Elvetica, dalla Svizzera questi dati, sì. E sono i dati che testimoniano come sia proceduto il fenomeno negli ultimi anni. Nei primi 3 mesi del 2015 erano stati trovati in Svizzera illegali, presumibilmente passati dai nostri confini, appunto 3.300 migranti. Nel 2016 erano 5.500. Quest'anno, nel primo trimestre, gli stranieri privi di permesso di soggiorno trovati in Svizzera sono già 7.300, sostanzialmente quasi un raddoppio ogni anno. A Como, nei mesi scorsi, scorsi si è verificata una situazione piuttosto critica, soprattutto nei pressi della stazione dove queste persone si trovavano e si fermavano proprio per poter provare a prendere tentare. Un treno, esatto, tentare il passaggio, tentare di andare in Svizzera, dove poi regolarmente o quasi regolarmente venivano fermati. Ora con questa ondata di arrivi immagino che la preoccupazione dalle parti vostre si stia gonfiando di nuovo, anche se non si vede fisicamente forse ancora. Beh, non è ancora arrivata, anche se ormai la situazione rispetto al 2015 è decisamente cambiata. Lì si parlano dei i dati che avete dato riguardavano i rinvenimenti in Confederazione Elvetica, però se c'è stato dato un dato sui respingimenti complessivi in frontiera, che erano di qualche centinaio nel 2015, nel 2016 le riammissioni in Italia in frontiera hanno sfiorato i 20.000, le 20.000 unità. 20.000. Quindi contro le qualche centinaia ci diceva del 2015. Quindi c'è questo movimento in atto, chiaramente un movimento che è difficile da gestire, ma che se non viene gestito provoca certamente grandi difficoltà a tutti, prima di tutto alle persone che si spostano, ma poi anche alle comunità locali che sono in difficoltà a definire misure idonee per garantire la dignità di tutti, sia di chi si muove sia di chi risiede. Lucini, per essere un po' più precisi sui numeri, 20.000 respingimenti, immagino che non voglia dire 20.000 persone respinte, ma 20.000 persone che ci provano, magari ci provano un'altra volta e quello fa il totale dei respingimenti, no? È possibile, sì, è possibile che sia un dato cumulativo in cui ci sono anche dei tentativi plurimi, diciamo, certo, sì, non sono corrispondenti a persone, ma a interventi di riammissione in Italia, e quest'estate soprattutto sono state moltissime. Come vi state preparando all'estate, quando è presumibile che questo flusso diventi ancora più potente, esattamente come l'anno scorso? Beh, intanto rispetto all'anno scorso, da settembre c'è un centro governativo per le persone in transito che è stato allestito a partire da settembre e che ha consentito alla prefettura di spostare le persone dal parco della stazione a questo luogo di accoglienza che attualmente non è completamente saturo, diciamo che può ospitare 300-400 persone al massimo, adesso siamo attorno alle 200 presenze, come dati riferiti, perché non lo gestiamo noi come ente locale ma la prefettura, però certamente se il ritmo degli afflussi riprende un'entità simile a quella dell'anno scorso, diventa complicato immaginare la gestione, soprattutto questo ha portato anche un aumento degli spostamenti nei periodi, diciamo, non solo estivi, perché noi comunque abbiamo anche presenze sul territorio che stanno aumentando, diciamo, di persone non inquadrate nei percorsi di accoglienza. Noi abbiamo un dormitorio aperto tutto l'anno che per comunale di 60 persone nei mesi invernali ed è appena stato chiuso. In collaborazione con la Caritas ce n'era un altro che raddoppiava le possibilità, adesso con la chiusura del dormitorio invernale stiamo verificando la presenza di un gran numero di persone che non sa dove collocarsi. La ringrazio, dobbiamo chiudere, la ringrazio, grazie. Prego, a Mario Lucini, sindaco di Como, ma avremo occasione di tornare a sentirci. Agli ascoltatori che via WhatsApp chiedono chi ce lo ha detto che i migranti non vogliono rimanere in Italia, ce lo dicono i numeri che ci ha fornito il sindaco Mario Lucini adesso, cioè se ci sono stati 20.000 respingimenti al confine con la Svizzera nell'arco del 2016, è assolutamente evidente che c'è un congruo numero di persone, ampio, molto ampio, che in Italia non ci vuole rimanere, e anche le singole storie che avrete sentito raccontare, cioè non c'è tendenzialmente non c'è un particolare interesse a rimanere in Italia. Italia, ma magari ricongiungersi a famiglie che possono essere in Germania, in Austria e in qualsiasi altro paese. Poi alcuni magari, certo, vorranno anche rimanere in Italia, e là dovrebbe intervenire lo Stato anche con i nuovi provvedimenti, e vedremo se funzioneranno. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e andremo a parlare di questa vicenda di Torino. 11 anni per passare dal processo di primo grado al processo d'appello, ovviamente reato prescritto, e non ne parliamo. Ancora la Corte d'Appello di Torino, non è il primo caso che raccontiamo, eh. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, in diretta video. I nostri titoli: in Gran Bretagna si andrà ad elezioni anticipate l'8 giugno, o almeno questo è quello che vuole la Premier Theresa May, su questo dovrà votare il Parlamento. Referendum in Turchia, opposizioni pronte a presentare ricorso, secondo l'OSCE le schede dubbie sono 2,5 milioni. Operazione antiterrorismo in Francia, a Marsiglia, da dove poi dai servizi parte un avviso ai candidati, rischio attentati per le presidenziali. Le Pen, Macron, Fillon e Mélenchon sono tutti molto vicini nei sondaggi. Dopo il blocco imposto dalla Basilicata, Leni chiude il centro Oli in Val d'Agri, ma ribadisce la sua correttezza. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per tornare a parlare di giustizia in quello che a questo punto possiamo immaginare che non sia una coincidenza. Per certi versi sembra essere stato, almeno per un certo periodo di tempo, un po' il buco nero della lentezza della giustizia italiana. E parliamo di questo passaggio dalla sentenza di primo grado all'inizio del processo d'appello al Tribunale di Torino. Vi ricorderete che la vicenda ci eravamo già occupati, e qualche ascoltatore che ci scrive via WhatsApp e via SMS ce lo sta ricordando, ma è lo stesso luogo, per così dire, della vicenda dell'uomo che aveva violentato la nipote per anni e poi era andato prescritto per questo motivo qua, per l'eccessiva durata del processo. Sì, è esattamente lo stesso luogo. La vicenda è, se vogliamo, più piccola, il reato è meno odioso della violenza su un minore, perché riguarda una vicenda di amministratori di condominio che sono accusati di essersi intascati 15.000 euro, e però così stanno le cose. Roberto Trinchero è avvocato, presidente della Camera Penale del Piemonte Valle d'Aosta. Buongiorno e benvenuto i nostri microfoni, Trinchero. Buongiorno a voi. Allora, eccoci qua. Dunque, 11 anni per arrivare dalla sentenza di primo grado all'inizio del processo d'appello. Sì, esatto. Il caso, mi permette di dirlo, è un po' diverso anche come ha detto lei, come contenuti, rispetto a quello che lei precedentemente aveva descritto, perché questo caso era la sentenza di primo grado, era una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Quindi questi due signori amministratori di condominio erano stati assolti nel 2006, i fatti erano del 2001, quindi l'impugnazione era stata fatta dalla parte civile, cioè l'avvocato di parte civile dei condomini. Quindi è un po' diverso. Un po' diverso, e se mi permette. Però il problema non è tanto, non è tanto il tipo di reato, non è tanto se era stata una sentenza di condanna in primo grado di assoluzione. Il problema sono questi tempi veramente irragionevole, uso il termine irragionevole perché la Costituzione, che dice all'articolo 111 che il processo giusto deve avere tempi ragionevoli. Sì, 11 anni, avvocato. Tra l'altro, ecco, stavo sottolineando questo. Lei diceva: in primo grado questi due signori sono stati assolti. Magari sono, tra l'altro, veramente innocenti e si devono subire un processo che dura un'eternità, esatto, avendo sul collo questo peso, naturalmente. Magari lo fanno di mestiere, gli amministratori di condominio di mestiere, e si trovano, certo, ogni volta che devono prendere magari un nuovo incarico, una cosa di questo genere, gli si va a vedere la fedina, per così dire, la dico volgarmente, la fedina, sì, penale, certo, e hanno questo carico pendente. Esatto. È pesante. E questo è molto pesante, infatti è per questo che noi avvocati penalisti delle Camere Penali siamo in agitazione, stiamo astenendoci e lo faremo ancora dal 2 al 5 maggio, proprio perché il decreto, il disegno di legge che è passato con la fiducia al Senato 15 giorni fa, quindi senza un dibattito parlamentare, prevede, per risolvere questa malattia della lentezza dei processi, prevede di allungare la prescrizione ancora di 3 anni per tutti i reati, il che vuol dire che per certe tipologie di reato, quali per esempio la corruzione, si potrà attendere per 22, 23 o 24 anni per sapere se una persona è colpevole o innocente. Però, oppure per sapere anche una persona offesa che ha avuto un danno da un reato, come in questo caso di cui si discute, che ha diritto la persona offesa di avere in tempi ragionevoli una decisione. Sì. E, tra l'altro mi ricorda, mi scusi avvocato, mi ricorda un'ascoltatrice che ci sta seguendo nella nostra diretta video su Facebook, scrive giustamente, questi sono i risvolti che riguardano le due persone e poi ci sono i risvolti economici, cioè quelli che riguardano tutti noi e che riguardano la durata dei processi. Però mettendo da parte questo, Trinchero, però io la vorrei portare sulla questione singola, perché ripeto, questo è il secondo caso che trattiamo da Torino. Ne avevo tra l'altro pescato un altro nei giorni scorsi, sempre con durate di questo genere. C'è un buco nero che riguarda nello specifico, presumibilmente, una singola persona che ha gestito quell'ufficio giudiziario per qualche anno, o no? Guardi, questo io non posso saperlo in questi termini. Quello che posso dire è che i problemi principali sono di carenza di personale amministrativo, e questo è il punto fondamentale. Sarebbero necessarie maggiori risorse, ma anche, Trinchero, di capacità e di capacità gestionale, di organizzazione. L'attuale presidente della Corte d'Appello di Torino, che è presidente da un anno e mezzo, forse due, si sta impegnando moltissimo nel controllare, verificare, dico banalmente, gli armadi della Corte d'Appello per accelerare i tempi. Evidentemente prima c'era un'organizzazione che non era sufficiente. Non è un caso, Trinchero, che tutti questi casi stiano uscendo negli ultimi mesi, proprio perché probabilmente qualcuno finalmente si è deciso ad aprire gli armadi, a tirar fuori dei casi che erano sepolti da anni, in questo caso da 11 anni. Qua il tema è che ovviamente poi non paga nessuno, per così dire, no? Per questi ritardi alla fine pagano solamente le parti coinvolte e ovviamente è noi che ci mettiamo i quattrini in quanto contribuenti. Viene condannata spesso l'Italia dalla Corte Europea di Strasburgo proprio per la lentezza dei processi, e viene condannata proprio, quindi veniamo condannati noi cittadini italiani per questo, per cui noi diciamo non si può risolvere, non si risolverà mai un problema della lentezza dei processi e quindi di reati che vanno in prescrizione allungando ancora il termine di prescrizione, perché significa che i fascicoli o questa tendenza resterà tale, si allungherà solo più l'attesa delle persone imputati e parti offese ad aspettare ancora di più 18-20 anni. Quello che noi diciamo, le persone sono ibernate in un congelatore in attesa di sapere quale sarà il loro destino. Quindi una parte offesa che non riesce a recuperare il danno, un imputato che dopo 15-20 anni è un'altra persona, ha messo su famiglia, dei figli, è diversa dalla persona quando è stata accusata di un reato. Certamente. No? La ringrazio, grazie Roberto Trinchero. Se posso avere un secondo per dirvi... Gliene do 30. Perfetto, prego. Questa protesta, questa estensione degli avvocati penalisti non è fatta per interesse degli avvocati, ma per i diritti e le garanzie dei cittadini. L'altra cosa pessima di questa riforma è il processo in videoconferenza, cioè i detenuti non verranno in aula, ma saranno in carcere davanti a un monitor, lontani dal loro avvocato, non vedranno in faccia il giudice non vedrà in faccia colui che dovrà giudicare. Questa è un'altra violazione, l'ha appena detto qualche giorno fa il nuovo presidente di ANM. La ringrazio. Grazie Roberto Trinchero, avvocato, presidente della Camera Penale Piemontese della Valle d'Aosta, per averci aiutato a raccontare questa storia. Non accetto la provocazione dell'ascoltatore che scrive: ma se sono colpevoli, la spada di Damocle della lentezza della giustizia li potrebbe aver indotti a non reiterare un reato simile. E su, dai, 11 anni, 16 anni addirittura per un processo, mi sembrano francamente troppi. A tra poco.